Ad essere un altro, ma non ci riesco. Sta musica mi cuda tra le braccia. È il freddo di un inverno che la nostra storia ghiaccia. Ti ho insegnato che cos'è l'amore. Hai mentito a te stessa perché hai mentito al tuo cuore. La differenza tra me e te si vede. Se ti capivo perché ti volevo bene. Amore è solo una parola, quanti ne parlano, ma in fondo tutti l'hanno vissuta una volta sola. Ti ho dato tutto me stesso in ogni piccolo gesto. Il mio mondo fatato, ma ti sei persa adesso. Se scrivo questi versi so che il cuore palpita. Mentre mi pensi mi senti vivo nell'anima, fissandomi negli occhi quando ti perdevi dentro miei. Ma questo vento brucia, so bene per me chi sei. Qui c'è un vento che brucia lontano da te. Non sento più il cuore che batte perché anche pensi sai che resto in piedi. Ma sto male, questo non lo vedi. Ha ucciso dentro di me l'amore che avevo per te. Ho imparato da te che cos'è la parola amare. Ho imparato da te che cos'è la parola odiare. L'amore non è quella parola di cui ne parlano. È troppo forte, se ti travolge non puoi fermarlo. Il tempo aiuta a dimenticare, ma non puoi farci nulla se dopo tanto ancora ci stai male. Se ti cattura un flusso che ti passa dentro, puoi fingere di stare bene ma non è lo stesso. Menti a te stesso perché spesso ti sei chiesto se questo era il giusto prezzo da pagare adesso. A volte per paura guardi una realtà, poi scopri che è il tuo mondo di felicità. Da dove i tuoi occhi splendono, senti il sapore di un amore in un frenito. Ma adesso piangi perché hai perso ciò che ti riempiva il cuore. A volte fa paura da gestire un grande amore. Qui c'è un vento che brucia lontano da te. Non sento più il cuore che batte perché anche pensi sai che resto in piedi. Ma sto male, questo non lo vedi. Ha ucciso dentro di me l'amore che avevo per te. Per te.